La versione di Oscar, di Oscar Giannino. 16:31 primi e 14 secondi. Grazie per l'ascolto, come sempre, in diretta in podcast qui della versione di Oscar. Vi ringrazio e vi saluta Oscar Giannino in diretta da Milano. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per candidarvi alla serie di trasmissioni Italia non per giovani. E anche per segnalare altri temi, domande, critiche, opinioni. Vi dico subito, la puntata oggi è dedicata in particolare ai veneti, se vogliono telefonarci all'800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, perché è una ideale continuazione la puntata di oggi su argomento di quella che abbiamo fatto pochissimi giorni fa con il professor Marco Ponti, in merito al fatto che non sia obbligato in Italia a fare una valutazione terza e indipendente dei costi-benefici delle grandi opere. E vi abbiamo spiegato come qualmente molte delle grandi opere previste ancora nel piano strategico, sia pur sforbiciato a Del Rio, furono aggiudicate addirittura prima che scattasse l'obbligo di gara da parte europea. E oggi parliamo proprio di un'opera, la Pedemontana Veneta, che ha una storia lunghissima. Siamo nel 2017, pensate che la prima volta che la Pedemontana Veneta fu prevista nel piano regionale dei trasporti del Veneto era il 1990, lo Stato stanziò i primi 40 miliardi di lire nel 1999, prima dell'euro. Poi nel 2001 l'opera viene classificata come superstrada e dal 2009 poi inizia l'iter dell'aggiudicazione, perché a dire la verità la gara viene pubblicata, il bando di gara dalla Regione Veneto è pubblicato nel 2006, e c'è un'intricatissima vicenda poi che porta tra il 2006 e il 2009 con impugnative reciproche tra coloro che poi vincono la gara e che sono gli aggiudicatari per la realizzazione. È un'opera di poco meno di 95 chilometri, per chi non lo sapesse, che punta a collegare il Vicentino e il Trevigiano attraversando tre autostrade, e quindi snellendo di molto il traffico delle arterie stradali oggi esistenti. E che cos'è lo spunto su cui chiedervi un'opinione? Lo spunto, cari ascoltatori veneti, oltre a spiegarvi su questa vicenda come si arriva a questo meccanismo che la Regione Veneta è stata, dal suo punto di vista, costretta adesso a deliberare, su proposta ovviamente della giunta guidata da Zaia, dal presidente Zaia. Ebbene, che cosa la giunta è stata costretta a deliberare? Perché altrimenti l'opera, che è in uno stato ancora molto arretrato, non verrebbe mai finita? È stata costretta a deliberare la sovraliquota IRPEF per i cittadini del Veneto. Tenete conto che dal 2009, mentre le sovraliquote ci sono praticamente in quasi tutte le regioni italiane, il Veneto era fierissimo di dire che non metteva le mani in tasca con una sovraliquota regionale IRPEF a chi risiedeva nel Veneto. E invece adesso la sovraliquota diventa necessaria come tassa di scopo per una rata annuale di ammortamento a carico della Regione Veneta per reperire le risorse per far andare avanti la Pedemontana, altrimenti la Pedemontana rimaneva ferma. E in che cosa consisterà questa sovraliquota? Un'aliquota base aggiuntiva, quindi dell'1,23% fino a 28.000 euro, che diventa del più 1,6% fino a 55.000 euro, e sale al 2% fino a 75.000 euro, e sale al 2,1% oltre i 75.000 euro di reddito lordo. C'è un'aliquota agevolata in questa addizionale veneta pro pedemontana per i disabili o i soggetti che hanno a carico un disabile o un reddito non superiore a 45.000 euro, se c'è disabile in famiglia, e in questo caso l'addizionale si ferma allo 0,9%. A cosa serve questa che il presidente Zaia ha chiamato tassa di scopo? Finisce appunto per trovare risorse finanziarie che altrimenti, nella complessa geografia che adesso tenterò di spiegarvi, di tutti i soggetti che insistono con responsabilità istituzionali sulla pedemontana, non tiravano fuori. Questo è il grande problema. Zaia ha precisato che con questa addizionale modulata, come vi ho detto, sono coinvolti 622.000 veneti, e a questo punto naturalmente questi 622.000 veneti si trovano a dover, per così dire, pagare due volte: una parte con l'addizionale IRPEF dal 2018 in avanti, e poi quando naturalmente utilizzeranno, quando sarà compiuta la pedemontana, perché dovranno pagare il loro percorso con la tariffa. La mia domanda è: siete favorevoli a pagare tasse di scopo per il completamento di opere viarie pubbliche che si trascinano da molti anni e per i quali gli stessi soggetti aggiudicatari e i diversi soggetti pubblici hanno dei fortissimi dubbi, perché ritengono che le stime di costo-beneficio, cioè le stime di traffico fatte all'atto dell'aggiudicazione, ve l'ho detto, l'aggiudicazione dura dal 2006 al 2009 con molte impugnative tra i perdenti e i vincenti prima dell'aggiudicazione finale, che comunque quelle stime non siano assolutamente più attualmente attendibili, perché questa è la storia. La Corte dei Conti, fine dell'anno scorso, aveva fatto un punto su questa vicenda. Comunque telefonateci per dircelo, perché io mi aspetto che molti di voi dicano: ma se un'opera sulla cui fondatezza non si è più sicuri, perché dobbiamo tirare fuori i soldi? La Regione Veneto sostiene, perché altrimenti non l'avremo mai. E ci ritroviamo esattamente, quindi, come vedete, nel caso che abbiamo descritto con il professor Marco Ponti, cioè quando si cominciano grandi opere pubbliche in Italia senza affidabili valutazioni di costo-beneficio ex ante fatte da indipendenti, ecco, ci troviamo esattamente in questa condizione. Allora, la Corte dei Conti, con dati rilevati al 30 giugno del 2016, quando ha fatto alla fine dell'anno scorso il punto, ha detto che lo stato di avanzamento di quei poco meno di 95 chilometri vedeva uno stato di avanzamento dei lavori inferiore al 20%, con precisione pari al 19,89%. La progettazione era arrivata al 68,6%, gli espropri, quelli necessari poi per realizzare e tradurre poi il progetto nell'opera, erano indietrissimo, cioè erano pari al 12,4%. Per realizzare gli espropri naturalmente ci vuole il liquido per poi pagare gli espropriati, sia pur al prezzo che è riconosciuto. E devo dire che la Corte dei Conti sulla pedemontana ha accumulato anno dopo anno una pila alta così di documenti, perché per esempio nell'anno prima, nel 2015, quindi sui dati di inizio 2015, comunque aveva rilevato che la pedemontana veneta era afflitta da problemi molto seri, in particolare carenze progettuali, difficoltà inerenti all'esecuzione dell'opera totalmente imprevista rispetto alla prima versione progettuale, la lentezza, l'iter dell'opera, e avete visto che un anno dopo eravamo ancora molto indietro, l'indeterminatezza nella determinazione del computo degli espropri, che infatti, come avete visto, sono fermi al 12,4%, l'esistenza, guarda, la cosa di cui abbiamo parlato due giorni fa, l'esistenza di clausole contrattuali troppo favorevoli al concessionario, e poi problematica ambientale rilevata dal ministero competente. Perché che cosa significa che deve essere la Regione Veneto una specie di bis ex ante invece che esposti di quello che succede con lo Stato che subentra a pagare ai concessionari, nel caso della Brebemi questa volta in Lombardia, e anche in quel caso con un'opera realizzata e magnificata in quanto progressiva, perché fatta con i soldi dei privati, però alla considerazione poi che le stime di flusso di traffico e quindi di incassi, malgrado l'aumento del biglietto, la tariffa rispetto a quello stipulato al prezzo dell'aggiudicazione della concessione, i soldi restano troppo pochi per i privati, a quel punto subentra il pubblico, perché questo è quello che avviene nel nostro paese. Perché, e questo io lo dico per far capire meglio la decisione della giunta Zaia, noi non siamo qui per criticare o meno la decisione della giunta Zaia, ma per capire insieme a voi come si arrivi, per effetto di quali diavolo di problemi amministrativi nella realizzazione delle grandi opere, si arrivi a questo punto. Dovete sapere che di fronte all'evidente doppio problema della carenza di finanze e quindi arretratezza dei lavori, e di fronte alla certificata stima delle attese di ritorno sul capitale investito, poiché i flussi erano molto diversi da quelli immaginati, è lì che subentra a questo punto la non volontà di andare avanti a finanziare l'opera, perché ad aspettare, il concessionario si è messo ad aspettare che la Cassa Depositi e Prestiti affiancasse e supportasse i finanziatori pubblici dell'opera, cioè lo Stato, la Regione Veneto, i comuni. Ma Cassa Depositi e Prestiti per prima, di fronte a queste stime di un'opera che non era così redditizia come immaginato quando la si è aggiudicata, beh, Cassa Depositi e Prestiti ha detto: ma noi perché dobbiamo buttare via i soldi? Domanda interessante, vero? Perché se la Cassa Depositi e Prestiti ritiene di non dover impegnare la propria finanza, insomma, a questo punto i contribuenti del Veneto dicono: e come Cassa Depositi e Prestiti, che c'ha il risparmio postale, da la raccolta postale, non ci mette i soldi del risparmio postale, ce li dobbiamo mettere noi con l'addizionale IRPEF? Beh, bella domanda, per così dire, eh? E ripeto, qui non c'entra la critica della politica, perché né Zaia né gli assessori della giunta Zaia hanno la risposta a questa domanda. Loro si sono trovati di fronte a un bivio. Che si fa? Si butta a mare tutto o tentiamo di andare avanti? Ma Cassa Depositi e Prestiti, vi ho detto, che hanno iniziato da un anno e mezzo a dire: ma i soldi, ma insomma. Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Europea degli Investimenti, a propria volta coinvolta nella raccolta della provvista finanziaria per la Pedemontana Veneto, non è che abbiano mai chiuso definitivamente la porta al finanziamento, però più volte hanno manifestato la loro opportunità di procedere a delle correzioni forti rispetto alla parte sia finanziaria che progettuale della Pedemontana Veneta. Tutto questo accumulato, e vi garantisco che è molto sintetica la mia descrizione, perché non basterebbe un'ora per descrivere tutti i problemi accumulati nel tempo, gli iter amministrativi, il concorso portato da soggetti diversi rispetto a quello concessionario, nell'evoluzione del tempo, la storia della Pedemontana Veneta, comunque si riassume nella scelta che si è manifestata alla giunta della Regione Veneto. E la risposta è: cari veneti, che dovete pagare, voi che non lo facevate a differenza di tutti o quasi gli altri cittadini di altre regioni, la vostra sovraddizionale per avere, presto o tardi, vedremo in quanti anni, a questo punto, la Pedemontana Veneta. A questo punto sentiamo, prima di presentare il nostro ospite, che cosa oggi il professor Dario Stevanato, che conoscete, che insegna diritto tributario a Trieste, ha reso come dichiarazione su questo tema al TGR del Veneto nella sua edizione delle 13.30. L'uso dell'addizionale per finanziare un'opera è abbastanza inconsueto, perché questo tipo di imposte come addizionale non ha vincolo di destinazione, non deve averlo. Probabilmente il vero motivo è che per recuperare un tale gettito l'unica era andare sull'IRPEF, soltanto mobilitando l'imposta sul reddito negli spazi consentiti dalla regione si riesce a recuperare i 300 milioni di cui si parla. Allora, traffico, e poi ve lo dico subito, ci darà una spiegazione vera da esperto il professor Ugo Arrigo, che segna Scienze delle Finanze e Finanza Pubblica all'Università Bicocca. Tra un minuto, traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. La versione di Oscar. E naturalmente, tornando in diretta, io prima ho dimenticato di dirvelo, la giornata ci presenta anche una tragedia stradale per il crollo, incredibilmente, di un cavalcavia sulla A14 nelle Marche. Il crollo di questo cavalcavia, erano in corso dei lavori per ampliare l'autostrada a 2 o 3 corsie purtroppo ha provocato 2 morti, ci sono 2 operai feriti, e ci ricorda questa tragedia il fatto che sta diventando insolitamente purtroppo ripetitivo questo evento, che ha dell'incredibile, cioè che crollino i cavalcavia sulle autostrade, perché all'eco nel 2016, in questo caso era sulla statale 36, ricordate, un altro morto esattamente anche in quel caso per un cavalcavia che è crollato, e quindi un tir che ha travolto due auto con un morto e 5 feriti, e poi anche ad Agrigento nel 2014, ricordate, ne parlano tutti del cavalcavia che era stato appena inaugurato e poi in realtà non si reggeva in piedi. Allora, professor Ugo Arrigo, ci spiega la sua opinione su come si arrivi questa volta non ex post a dare finanza pubblica alla Brebemi, pur realizzata in PPP, cioè con finanza privata come in Lombardia, ma ex ante per andare avanti a farla, pur essendo la Corte dei Conti e la stessa Cassa Depositi e Prestiti a nutrire forti dubbi oramai sulla redditività di quell'opera? Lei che dice, professor Arrigo? Ma intanto la cosa è sconvolgente, insomma, mi domando in quali altri paesi europei possa accadere una cosa simile, io non ho esempi, e la considerazione che si può fare è che forse ci siamo sbagliati, non siamo un paese europeo e quindi non facciamo quello che gli altri normalmente fanno, cioè prima di fare delle scelte economiche valutare con attenzione, e poi soprattutto chi presenta dei progetti e ottiene delle concessioni si assume il rischio, se le cose vanno male il danno è suo e non può ricadere sulla collettività. Ma non vedo perché non dovremmo garantire chi apre un ristorante, dice beh io apro un ristorante mi aspetto di avere un certo numero di clienti, beh ma poi se non ce li ho il comune mi darà la differenza. Il fatto che cioè, un'autostrada è un'opera diciamo che crea benefici a chi la utilizza, non crea benefici a chi non la utilizza. E quindi se chi dovrebbe utilizzarla non è disponibile a pagare un valore remunerativo per utilizzarla, vuol dire che quell'opera è inutile. E questa è la dimostrazione del fatto che si stanno creando opere che non servono e per le quali si stanno spendendo più soldi rispetto ai benefici che queste opere generano. Questa è la dimostrazione palese. L'altra considerazione è che questi esempi rendono molto molto difficile insegnare la materia che insegno, perché se io domani vado in aula e i ragazzi hanno letto la notizia e mi chiede, io spendo 2 ore per non spiegargli, per non riuscire a giustificare una cosa del genere su base di razionalità. Cioè, devo dire che forse noi abbiamo un approccio, potrei dire, di tipo romantico alla spesa pubblica, agli investimenti infrastrutturali. Abbiamo un approccio romantico anziché un approccio illuministico razionalista. Quindi, che bello sarebbe se qui ci fosse una bella autostrada piuttosto che qualcos'altro. Ok, sarebbe bello, però è costoso. E allora bisogna fare dei conti che saranno anche noiosi, saranno anche, diciamo così, problematici e complicati, ma purtroppo costruire costa e quindi noi usiamo delle risorse per fare quest'opera qui, le sottraiamo ad altri impieghi, ad altri utilizzi, e quelli principali sono quelli privati dei cittadini veneti che si ritrovano a dover sborsare per un'opera che magari non hanno nessuna intenzione di utilizzare. A me viene in mente, data la regione, immaginiamo un cittadino di Venezia città, no? Che l'auto non ce l'ha e magari ha la barchetta e lui quell'opera non la userà mai, quindi deve pagare però ogni anno l'addizionale IRPEF, lui che sta a Venezia e usa il motoscafo e il vaporetto, per un'autostrada che non è assolutamente di suo interesse. L'altra considerazione che mi viene in mente è che probabilmente questo articolo 53 della Costituzione dovrebbe essere forse una bella riforma costituzionale, riscritto un attimo per spiegare cosa si intende per spesa pubblica, per spese pubbliche, per capacità contributiva. Allora, se qualsiasi spesa che il principe decide che è pubblica, allora deve essere assoggettabile a finanziamento con imposte varie, beh, allora voglio dire. A questo punto non, il discorso è finito, insomma, usciamo dall'euro, usciamo dall'Unione Europea, allora, seguiamo le Alpi. A questo e seguendo quello che lei ci ha appena detto, cioè se non sono i privati a volerci mettere più soldi vuol dire che l'opera non serve. Alcuni ascoltatori chiedono, ma i privati a questo punto, visto che ce li mettiamo noi, ci perdono qualcosa? Allora, funziona così l'accordo che è stato reso noto, che è il sottostante rispetto al consorzio SIS privato che ha la concessione per realizzare l'opera e poi per gestirla? Sì, al consorzio SIS ci rimette. In teoria vi dico i numeri che sono stati pubblicati, cioè l'intesa con la regione che avanza i soldi raccolti dai veneti con l'addizionale IRPEF sposta a questo punto nelle casse regionali l'incasso dei futuri pedaggi e non più al consorzio di costruzione. Il consorzio di costruzione riceve comunque il canone di disponibilità dell'opera una volta realizzata. E il canone di disponibilità però è stato alzato, per così dire, che viene è alzato a 153 milioni l'anno, quindi per il numero di anni in cui lo deve incassare, cioè 39 anni, questo si prevede nel bando di gara, significa che ne incasserà 12,1 miliardi, mentre gli incassi previsti, ma c'è un enorme punto interrogativo come vi ho detto, sono stimati in 13,2 miliardi e a questo punto vanno al regione. Quelli. Allora, naturalmente tutte queste cifre sono larghissimamente appesi a un'incertezza che, ripeto, non è stata valutata superabile da CDP, BEI e sulla quale la Corte dei Conti è la prima a mettere enormi punti interrogativi. Sentiamo rapidamente come la pensano alcuni degli ascoltatori che ci hanno, come immaginavo, chiamato. Cominciamo con Luigi da Padova. Luigi, prego. Buonasera, grazie Giannino. Alla sua domanda io rispondo ovviamente sì, sono d'accordo perché sono obbligato a pagare. Perché un'opera che è a metà è brutto lasciarla anche lì. Il punto è un altro però, che la politica e con tutte le sue articolazioni dal governo alle strutture burocratiche sono incapaci di fare una programmazione efficace e realizzarla in tempi certi e nessuno paga per gli errori, dai progettisti, dalla pianificazione, lo studio dei flussi. Aggiungo questo, Giannino. Che il Veneto è stato per anni considerato locomotiva dell'Europa, sì. Dell'Italia. E negli anni 90 abbiamo costruito zone industriali dappertutto, senza una programmazione organica. Adesso ci troviamo con un casino per le strade, naturalmente dobbiamo anche muoverci, e arriviamo a distanza di 20 anni a pensare a una strada che doveva essere utile 20 anni fa. 20 anni fa, sì, in effetti. E nessuno paga detto, per questi errori. Se per questo, ripeto, più purtroppo stiamo parlando di un'opera la cui storia dal punto di vista del concepimento inizia nel 1990, quindi se si fa la somma sono 27 anni fa. Paolo da Verona, come la pensa? Grazie Luigi intanto. Paolo, prego. Sì, buonasera dottore. Io la penso un po' diversamente, sì. Non sto a indicare l'importanza della pedemontana o meno, non conosco i fatti. Sì. Quello che metto fortemente in dubbio è perché si deve sempre continuare a tartassare il cittadino per opere pubbliche. Allora, io dico questo, abito nel Basso Veronese, qui le indico una serie di opere fatte, parliamo di milioni spesi, non utilizzate. Un bacino idrico fatto sul Canal Bianco con tanto di porto non utilizzato. Un ponte nuovo sull'Adige allacciato a una comunale. Non le dico poi i soldi trovati per la plantumazione del consorzio di bonifica, tutti finanziati dalla regione, e puntualmente dopo 6-7 mesi queste piante muoiono. Parliamo di centinaia di migliaia di euro, se non milioni. Se non milioni. Allora io dico, non ne parliamo poi della nuova ciclabile che vogliono fare sul lago di Garda. Insomma, lei dice ci sono un mucchio di soldi spese in opere che non sono necessari. E per questo che noi ci battiamo per l'obbligo di valutazione terza indipendente e per responsabilità di penali poi, una volta sugli aggiudicatari. Però, come aveva spiegato il professor Ugo Arrigo, a volte abbiamo l'impressione di essere in un paese sospeso nel nulla. Mi dispiace per cari veneti, buona addizionale a tutti voi e speriamo che la vediate e che sia meno inutile di quello che sembra molti organi titolati a dire, però noi soldi non ce li mettiamo, voi ce li dovrete mettere. Controllate Strada 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:20 a Tantino 2.